l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, il nostro appuntamento settimanale con l'Europa. Cerchiamo un'altra Europa, insomma l'Europa oggi è nell'attualità quotidiana e nei GR, nei tanti programmi di Radio 24 questa Europa viene raccontata. Noi cerchiamo anche altre sfumature, altri punti di vista. Un programma in collaborazione con Euronet, euronet.eu, per conoscere questo network, tante radio, tante lingue diverse per parlare del nostro continente. Ci trovate in Facebook, facebook.com/l'altraeuropa, sono le nostre pagine ufficiali che aggiorniamo in diretta con tutti i link che andiamo a sfiorare. 349 238 6666 invece per i vostri SMS. Si parte dalla Francia, si parte con un martello. Questo è quello che voi potete ascoltare, quello che però essendo in radio non potete vedere ve lo racconto. Sono 8 monache e altrettanti monaci, 7 monaci, e li vedete, sono su una ruspa, hanno un martello in mano, con questo martello stanno cercando di costruire un monastero. C'è anche una suora molto brava col pallone, perché in questo videoclip si vede mentre sta palleggiando. Videoclip che abbiamo già caricato in Facebook, ma videoclip che nasce come provocazione, come pubblicità, come spot per trovare i fondi per costruire un monastero, il monastero di San Giuseppe a Montrouge. Siamo dalle parti di Montpellier e con noi c'è una delle suore che ha ideato questo strano spot. E diamole il benvenuto a suor Catherine Marie. Ciao suor Catherine. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto dimmi subito, tu che parte hai interpretato? Chi sei tra queste? Io sono la suora che apre la porta a tutti gli altri monaci. Ah, ok, perfetto. Ricevo il martello ed apro la porta. Allora, adesso entriamo nello specifico, però ti devo chiedere un'altra curiosità subito. Ma c'è una sorella che è bravissima a calcio. Si chiama Suor Marta. E ci sa fare col pallone? Sì. Allora, Suor Catherine, ci racconti un po' come vi è nata l'idea di realizzare questo spot veramente bello? L'idea ci è venuta con un nostro collaboratore per la comunicazione, il signor Piquet Gauthier. Sì. Vedendo una nostra foto dove noi avevamo preso il posto delle future statue, ci ha visti così, ha detto: ma è bello, dovreste fare un video per fare conoscere il progetto, visto che siete giovani. Mm-hmm. Ecco. Infatti, insomma, siete un ordine molto giovane, l'ordine di San Giuseppe, se non erro. Infatti sì, mm-hmm. La comunità è nata nel 90. Sì. E i primi monaci erano dei studenti radunati attorno al nostro fondatore, il padre Verlinde, che era professore a Lione. Quindi i primi monaci erano studenti, avevano 25 anni e adesso un po' di più. E siamo nella regione di Linguadoca, Rossiglione, quindi zona Montpellier, e voi volete costruire questo convento, è luogo di passaggio, vero, di pellegrini? Sì, accogliamo 20.000 pellegrini ogni anno, senza contare quelli che non soggiornano, che non mangiano, questi sono ancora di più. Ecco, la casa qua esiste dal 1967, quindi più o meno 40 anni. Sì. Però è una casa d'accoglienza per i pellegrini e non c'era un posto per accogliere una comunità religiosa. Infatti il nostro vescovo ci ha chiamati nel 2007 chiedendoci di animare questo santuario dedicato a San Giuseppe, e venendo qua per questa missione abbiamo visto che non c'era un luogo adatto alla nostra vita conventuale, quindi abbiamo pensato di costruire qualcosa, prima di tutto una cappella per il Signore, perché non c'era una cappella abbastanza grande per accogliere la comunità e le persone la domenica, e poi un monastero per noi. Allora, vi invito davvero ad andare immediatamente in Facebook, nelle nostre pagine facebook.com/l'altraeuropa, per vedere questo video che è assolutamente demenziale, anche nel senso bello del termine. E vi siete messi in gioco e avete scritto voi anche la sceneggiatura? Sì, appunto, sì. perché le parole di questa canzone sembravano proprio adatte. Si tratta di martello, di campana, di cantici, ecco, ci siamo ritrovati, quindi... E vi siete anche divertiti, pare. Sì, molto, sì. E i risultati si iniziano a vedere, tanta attenzione, perché comunque è stato riportato anche dai siti internet più importanti in Francia. Stanno arrivando anche i primi fondi? Sì, i primi fondi stanno arrivando e anche molta simpatia dalla parte della gente che non si aspettavano trovare questo genere, questo mezzo di comunicazione per un evento così da parte da monaci. È vero che l'immagine è piuttosto di religiosi anziani, di comunità un po' vecchie, diciamo, e allora abbiamo colpito la gente così pure, perché la nostra comunità anima differenti siti internet e perciò siamo giovani, abbiamo scelto dei mezzi di comunicare adatti. Sì, sì, no, poi visto come palleggia la vostra consorella, cioè avete sicuramente in termini di comunicazione, avete delle carte da giocarvi. Siete anche su Facebook, sì. Questo vuol dire che tra di voi c'è chi anima la pagina Facebook? Piuttosto Fra Domenico. È Fra Domenico, ok, quello che smanetta. E facebook.com Famille de Saint-Joseph è la pagina, ma abbiamo messo il link nelle nostre pagine in Facebook. Ah, sì, grazie. Grazie. E allora, famille.de.saint-joseph. Sì. Perfetto. E grazie davvero. Insomma, se ci sarà un seguito di questo videoclip, vogliamo saperlo, che insomma tenteremo di far vedere anche questo via radio, ok, Suor Catherine? Grazie, arrivederci. Grazie. Ciao, buon sabato. facebook.com/l'altra Europa. Se volete vederlo, ora un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua per viaggiare in Europa. Euro post-it. È ora di disegnare. Una sola immagine può comunicare più di tante parole. Il CIPE, il Centro per le Imprese Internazionali, invita disegnatori di tutte le età e nazioni a partecipare al suo concorso internazionale di fumetti. I disegni devono essere legati ad una di queste tre categorie: democrazia, corruzione e pari opportunità. Si possono presentare due fumetti per categoria e vincere fino a $5,000 di premio. Il concorso è aperto a professionisti, ma anche ai fumettisti per passione. L'unica richiesta è che i lavori siano originali e mai pubblicati prima. Prendete la matita e affrettatevi. C'è tempo fino al 17 aprile. Per spedire i lavori e saperne di più, cipe.org/cartoon. L'altra Europa. L'opposizione retirou al governo todas as condições para continuar a governar. Em consequência disso, apresentei agora mesmo ao Sr. Presidente da República a demissão do cargo de Primeiro-Ministro. Tenho consciência da seriedade desta situação e quero por isso... Siamo in Portogallo, lui è il primo ministro, José Sócrates, che sta rassegnando le dimissioni. È accaduto il 23 marzo, il Portogallo in profonda crisi. Anche oggi c'è una pagina su Repubblica che racconta le vicende di queste ore. Ci sono anche insomma, alcune implicazioni abbastanza surreali in questa ricerca sfrenata di soldi, in questo non volere gli aiuti, in voler farcela da soli, però con un vuoto politico molto preoccupante. Se ne sta parlando poco, volevamo capire invece quello che sta succedendo e lo facciamo con Fernando Parata, caporedattore del principale telegiornale portoghese di RTP One. Ciao Fernando, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. Tira una brutta aria, vero? Sì, un po' tesa fra i politici sono un po' tesi per questi giorni per quello che succede. Uh-huh. Allora, il primo ministro ha dato le dimissioni che sono state accolte? No, non ancora. Aspettiamo la decisione del presidente, però è chiaro che sì, che lui va a prendere questa dimissione e il governo cade. Penso che lui non l'abbia fatto fino adesso perché, come ieri e l'altro ieri, è stata a Bruxelles questa riunione dell'Unione Europea. Lui non voleva che Socrates andasse lì come primo ministro dimesso, quindi ha aspettato qualche giorno, però forse oggi o lunedì, il più tardi, questa demissione sarà un fatto, sì. Ok. Alcune voci dicono anche che, insomma, siccome martedì arriva il principe Carlo e Camilla, arrivano lunedì. Sì. E li accogliete così, accogliendo le dimissioni del vostro primo ministro, potrebbe essere anche un... sì, perché ieri... Sì. I procedimenti per le elezioni sono già cominciati. Ieri il Presidente ha ricevuto i partiti e tutti sono d'accordo. C'è fretta per queste elezioni. Accadranno probabilmente il 29 maggio o il più tardi il 5 giugno. Quindi è un processo, tutti hanno fretta di risolvere questo il più breve possibile. Si parla di... Bisogna avere un governo stabile, insomma, tutti sono d'accordo su questo punto. Uh-huh. E nessuno anche pare voglia prendersi la responsabilità di chiedere comunque questi aiuti all'Unione Europea, però le casse dello Stato parlano di ancora due mesi di autonomia e poi non ci sono più soldi per pagare gli stipendi, giusto? Sì, appunto, sì. Ieri sui giornali appareva questo punto, perché dicono che ci sono soltanto per pagare gli stipendi delle persone che lavorano per lo Stato, le pensioni, ci saranno soldi per due mesi, insomma. Qua tutta la gente non vuole questo aiuto, perché si sa che l'intervento sia dei fondi europei sia probabilmente del Fondo Monetario Internazionale ci porterà più corti nei stipendi. Sì. Grazie davvero Fernando per averci dato questa fotografia di quello che sta accadendo in queste ore in Portogallo. Ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Ciao e buon lavoro. Grazie, buongiorno. Ciao, buon sabato, ciao Fernando. Grime, grot, filth, mud, pigs, bacteria, soil, bugs, filthy movies, puddles and secrets. There's something that makes you unclean. Entirely subjective. Harm. Hidden. Deviance, perversion, transgression. It's the stuff that you don't want attached to you. Quello che state ascoltando è lo spot di una mostra. Vi abbiamo segnalato una mostra a Parigi sul cannibalismo, sui nostri Europost-it, segnalazioni dritte che vi diamo durante la puntata. Dal cannibalismo invece a Parigi passiamo allo sporco a Londra, perché si è appena inaugurata una mostra sulla cultura dello sporco, possiamo definirla così. È un viaggio negli anni, nei secoli, in quello che è il rapporto tra l'uomo e lo sporco. Abbiamo inviato un nostro collaboratore estemporaneo a vedere questa mostra in modo che ce la possa raccontare in diretta. Diamo il benvenuto a Mattia Pozzoni, lavorava come ha detto Stampa alla Triennale di Milano, ora è a Londra per un master in arte contemporanea e lo abbiamo svegliato all'alba appunto per andare a visitare questa mostra. Ciao Mattia. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Allora, si può esporre lo sporco? Sì, sì, sì. Il sottotitolo della mostra è La sporca realtà della vita quotidiana, che già è tutto un programma. Il titolo invece qual è? Sporco. Ah, ok, perfetto. Sporco. Evocativo, direi. E dove si trova la mostra? La mostra è la Wellcome Collection, che è un museo qui di Londra molto interessante, che è stato fondato dal signor Wellcome, che era un filantropo, scienziato, un uomo veramente multiforme, e che ha dato dei fondi per questo spazio espositivo molto grande, molto interessante, che espone sempre mostre sulla salute o sul corpo, abbastanza particolari. La mostra precedente, ad esempio, era sull'utilizzo della droga e dell'alcol nella Londra vittoriana. Ho capito. Quindi c'è sempre un taglio particolare. Uh-huh. Quindi insomma l'antropologia che viene appunto messa in mostra, che viene raccontata attraverso anche delle tecniche nuove, perché credo che sia anche abbastanza interattiva come mostra. Com'è sviluppata e cosa hai visto? No, la mostra è molto interessante perché è divisa in sei sezioni. Fondamentalmente si rifà ad un testo di un'antropologa inglese che dice che lo sporco non ha collocazione, e quindi appunto il curatore ha deciso di analizzarla in sei momenti storici diversi e in sei località diverse. Si passa dall'Olanda del 600 ad Elst, 1683, che è analizzata come, come esempio di pulizia. Infatti, ad esempio, se vediamo anche in, in molta dell'arte fiamminga di quel periodo, sono presenti scene di vita quotidiana e domestica dove ci sono le serve della casa che puliscono. Era anche una volontà di tenere lontani i vizi, cioè lo sporco era visto come un vizio e quindi le virtù della casa dovevano essere protette dal, dai vizi del caotico mondo circostante. Mm-hmm. La cosa importante e interessante di questa sezione è che ci sono, c'è anche un microscopio di, scusate la pronuncia, Antoni van Leeuwenhoek, penso si dica, sì. Che, è un, che è il primo scopritore al mondo dei, dei batteri. Ok, quindi insomma si va proprio in profondità. Sì, sì, no, anche ci sono nello sport, molto, certo. Sì, sì. Molto interessanti. Poi ad esempio è interessante anche la sezione sull'ospedale di Glasgow del 1867. L'ospedale di Glasgow versava in condizioni igieniche, oserei dire, imbarazzanti. C'era un rischio di amputazione dovute anche a ferite normali molto alto a causa del, delle infezioni. Okay. Mentre nel, in quegli anni arriva Joseph Lister, che è uno scienziato che si rifà molto all'opera di Pasteur, e introduce l'utilizzo dell'acido fenico, che a quei tempi era utilizzato per deodorare le fogne, e lui lo utilizza per metodi antisettici. Lui è il cosiddetto inventore dell'antisepsi. Mm-hmm. E quindi insomma, e riesce ad ottenere dei risultati eccezionali nella cura delle ferite più lievi che prima portavano quasi al 90% al rischio di amputazione, certo, degli arti. Poi leggendo il programma, insomma, si arriva ai giorni nostri con Nuova Delhi, che diventa un po' un paradigma di tante cose anche che non funzionano, partendo da, esatto, dalle, soprattutto dalle inadeguate fognature, e si viaggia anche nel tempo perché si arriva in una New York del 2030. Come viene anticipata questa New York City? Sì, New York è interessante perché viene presa in considerazione l'area di Fresh Kills, che è la discarica a cielo aperto più grossa del mondo. È stata chiusa qualche anno fa a Staten Island, e per darvi un'idea delle dimensioni è grossa come tre volte Central Park, e il picco d'altezza è quello della Statua della Libertà, è visibile dallo spazio. Okay. Per darvi un'idea, è stata chiusa e al posto di Fresh Kills verrà realizzato un parco pubblico. Mm-hmm. Dove tutti potranno andare e rivivere l'area come era una volta. Ok, welcomecollection.org è il sito per tutte le informazioni. E Mattia, grazie per questa visita che hai fatto per noi. Ti sei fatto una doccia uscito dalla mostra? Assolutamente, assolutamente, anche perché oggi devo essere presentabile, che devo andare alla Boat Race. Ah, è la oggi? Gara... Sì, è oggi la gara tra Cambridge e Oxford, che è quanto di più inglese esista, la fanno dal 1829. Ma vai a fare, quindi... il tifo anche? Cioè sei di parte o fai il semplice sì, turista? Sì, sì, Oxford. Ok, perfetto. Buona giornata, grazie davvero Mattia. Grazie, ciao. Mille anche, ciao, a voi. Ciao. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, l'altra Europa, euronet.eu, se volete conoscere il nostro network e vedere, ascoltare tutti i dossier settimanali in più lingue, anche gli stessi argomenti che vengono affrontati da tanti punti di vista diversi, e l'altra Europa è anche su Facebook, nelle nostre pagine ufficiali trovate tutti i link e anche il video delle suore che insomma ha già visto ha avuto più di 70.000 visualizzazioni in pochissimi giorni, questo spot di cui abbiamo parlato poco fa, ma trovate anche tutti gli altri argomenti. Parliamo di teatro perché continua a Radio 24 la settimana dedicata alla situazione della cultura e dei teatri in Italia, ma non solo. Con l'altra Europa vogliamo trattare questo argomento uscendo dai nostri confini per fotografare anche quella che è la situazione all'interno dei continenti, del continente. Non potremo ovviamente analizzare ogni singola nazione, però così avere qualche termine di paragone per capire quello che sta accadendo anche negli altri paesi. E per farlo abbiamo invitato un esperto in materia, è l'ex direttore della Comédie de Saint-Étienne e presidente della Convenzione Teatrale Europea. Do il benvenuto a Jean-Claude Berruti. Ciao Jean-Claude, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Tu conosci molto bene il teatro a livello europeo e appunto anche perché sei presidente di questa convenzione teatrale europea. Di cosa si tratta? Si tratta di più di 40 teatri europei che si trovano tutti i sei mesi per parlare delle difficoltà che si trovano in tutto il paese. Mm-hmm. E sappiamo che le difficoltà sono diverse, ma dappertutto la situazione è molto difficile. Ok, noi conosciamo in questa settimana Radio 24, insomma, si è parlato tanto di teatro in Italia, cerchiamo di capire cosa succede anche in altre nazioni, per esempio la Francia, che tu conosci molto bene, che così a prima vista, insomma, sembra una situazione migliore, sembra che, insomma, ci siano molti più finanziamenti dedicati all'attività culturale. È così per davvero? Sì, sono la situazione è ancora non tanto male. Sì. Lei in Italia sente il peggio, questo lo sappiamo, ma il progetto del governo è di cercare di fare 10% di meno per il Teatro Nazionale su 3 anni. E questo fa paura. E sappiamo anche che il progetto segreto del Ministero dell'Economia, sì, è di dire cultura 0 euro. Ah, quindi questo è un po'... Lei dovete dimenticare la prima cosa che Sarkozy ha detto quando è arrivato al governo, quando è venuto presidente, di dire che un euro di subvenzione dove essere un euro utile. Okay. Lo sappiamo tutti, artisti. Sì. Un euro per la cultura non è direttamente utile. Certo. Jean-Claude, invece, la Germania è considerato un paese virtuoso per quel che riguarda i finanziamenti alla cultura e al teatro in particolare. È vero? E cosa fanno loro che le altre nazioni non fanno e invece potrebbero fare? È una questione di storia. Sono le regioni che pagano gli altri. In tutte le città c'è un teatro con un insieme di attori. Questo vuol dire che il problema dell'impegno artistico è completamente diverso del nostro. Ma anche in Germania, che per noi è sempre un esempio artistico e di funzionamento economico, lei non lo sapete forse, ma un anno fa hanno cercato di chiudere 4 teatri. Sì. 4 teatri, e nel questi 4 un teatro molto importante, il Staatstheater di Wuppertal. Hanno aspettato la morte di Pina Bausch e hanno cercato di chiudere. Non è fatto, ma ci sono anche problemi. Certo. Jean-Claude, invece, i paesi dell'est stanno soffrendo la crisi e probabilmente partono anche da una situazione più svantaggiata, però c'è tanta vitalità e stanno reagendo anche con situazioni nuove, situazioni creative. È anche quella una risposta alla crisi? Io penso che la prima risposta deve essere una risposta impegno artistico. Gli attori non hanno lavoro più in Francia, penso che in Italia è lo stesso. Sì. Sono due moyen, come si dice moyen? Metà? No. Possibilità. Mezzi. Di fare dell'impegno artistico. Primo, di aiutare le compagnie indipendenti. Sì. Sono le compagnie che fanno di più l'impegno. Okay. E dopo come si dice, imposare a tutti i teatri stabili di avere attore almeno per un anno. Ok, 5, quindi 6, 7, 8 attori. Perfetto, quindi imporre questa cosa. Jean-Claude, un'ultima domanda, ma quando vi trovate voi 40 teatri europei, insomma, vi guardate in faccia, c'è un pessimismo collettivo o ci sono anche, insomma, dei raggi di sole, ci sono comunque piccole oasi di speranza? Come vi guardate e cosa vi dite? Abbiamo tutti molti paure in tutte le situazioni diverse, e la cosa che a noi fa il più di angoscia, sì, e di sapere che stesso la direzione a Bruxelles, cultura e educazione, non è sicura che esisterà un nuovo programma in due anni. Ok, quindi insomma la mancanza di prospettive è la cosa che più dà angoscia. Non sono più le prospettive, questo è il neoliberalismo di tutta parte. Nella crisi la cultura dove pagare al primo. Ok. Questo può essere sinistra, destra, c'è divenuto lo stesso. Ok. Però insomma c'è tanta voglia di cultura, anche questa settimana Radio 24 è stato dimostrato minuto per minuto nei tanti programmi, quindi speriamo che questa sia la risposta migliore a chi si dimentica, ahimè, che la cultura è vita, la cultura è turismo, la cultura è comunque è l'economia che gira, è tutto questo la cultura, quindi speriamo di avere nuove prospettive in Italia e all'estero. Grazie davvero Jean-Claude e complimenti a te per la tua attività, insomma, non abbiamo raccontato grazie. Il tuo curriculum, ma sei ben noto in Francia e non solo, e buon lavoro con la convenzione. Ciao e buon sabato. Grazie, ciao, buongiorno. Ciao, grazie. Europostit. Premio Europa per il teatro. Dal 12 al 17 aprile a San Pietroburgo si tiene il più prestigioso riconoscimento europeo in ambito teatrale, la 12ª edizione del Premio Europa Nuove Realtà Teatrali. Il premio è pensato per incoraggiare e stimolare gli artisti e le tendenze emergenti nel teatro europeo e si premiano le idee, i teatri, le compagnie, ma anche i singoli artisti. Il vincitore viene finanziato con un fondo fino a 30.000 euro. Quest'anno hanno vinto artisti inglesi, russi, finlandesi, islandesi, portoghesi e della Repubblica Ceca e Slovacca. Il premio è diventato il punto di incontro delle giovani realtà teatrali e dopo 9 anni a Taormina, da 3 anni a Itinerante. Se siete artisti o appassionati di teatro, trovate tutto su premio-europa.org. È difficile in Italia vivere di sola arte, di sola musica, di sola cultura, quindi c'è chi cerca di farlo andando all'estero, e andiamo a raccontarvi una delle nostre storie, le storie che ci piace scovare, di italiani che vanno oltre confine per portare il proprio talento, la propria esperienza, poi quello che acquisiscono lo riportano anche in Italia, ci piace questo scambio. Lui è un musicista e compositore di origine salentina, vive qualche giorno al mese a Roma, ma la sua arte la porta in tutta Europa, soprattutto nell'est Europa. È una collaborazione fissa con Turku in Finlandia, dove si occupa di un festival internazionale ed è coinvolto anche quest'anno in occasione di Turku, che è capitale europea della cultura. Diamo il benvenuto a Francesco Maggio. Ciao Francesco. Ciao a tutti, ciao Federico, buongiorno. Allora, in Europa è più facile vivere con la cultura rispetto all'Italia o la difficoltà è transnazionale? No, io faccio delle tournée in Italia, all'estero come compositore principalmente, dopo mi interesso anche di organizzazione musicale. Lavoro appunto in Finlandia, dove sono consulente artistico del Brinkol Summer Concerts a Turku. Lavorare all'estero non solo è più gratificante dal punto di vista economico, ma soprattutto da quello artistico. E gli ascoltatori infatti sono molto più interessati alla nuova musica, alla musica contemporanea, ma soprattutto a quella italiana, epigona di un'antichissima tradizione. E quindi con questo piace, no? Comunque già piace, il fatto di... Piace, le soddisfazioni sono tante. E un giovane musicista, un giovane artista italiano si sente molto più gratificato di lavorare all'estero rispetto all'Italia, questo qui è sicuro. Perfetto. Francesco, Turku è molto lontano dal Salento, però raccontaci Salento, questo strano incontro. Assolutamente, ma oggi insomma con gli aerei è molto più semplice raggiungere da Roma la Finlandia anziché il Salento, te lo assicuro. E come ti sei proposto? Come mai questo, appunto, questa contaminazione tra il Salento, tra Roma e Turku? No, a Turku, diciamo, io sono un compositore, organizzatore musicale, sono di un paesino, una frazione di Tricase che si chiama De Presse, in provincia di Lecce, sì. Poi vivo a Roma e mi sono trovato a lavorare a Turku un pochino per caso. Tutto è successo nel 2005, sì, dopo aver scritto una prima opera per il chitarrista finlandese Patrick Clemola, il quale successivamente poi, assieme al console onorario di Turku, Benito Casagrande, dopo aver ascoltato la mia musica in Finlandia, dopo aver letto delle interviste su quotidiani finlandesi mi hanno proposto, insomma, di diventare consulente artistico di questo festival che dirigeva appunto Patrick Lemola. Il Brinkhall Summer Concerts, che ha sede proprio a Brinkhall a Turku, che è un'antica masseria d'origine svedese, patrimonio culturale dell'UNESCO. Poi successivamente al mio arrivo siamo riusciti a coinvolgere anche l'Istituto Italiano di Cultura di Helsinki, che ci sostiene, l'ambasciata italiana e il consolato onorario di Turku. Quindi un festival finlandese con tantissime proposte italiane tutti gli anni, anche quest'anno per... Quando sarà quest'anno? Quando sarà? Quest'anno sarà nel mese di agosto. Perfetto. È un festival estivo. Ok, lo seguiremo in diretta sicuramente con l'altra Europa. Ci saremo. Poi insomma, allora, con questo cappello di città europee della cultura per il 2011, credo che anche il tuo festival debba avere insieme maggior risalto. Tallinn, sì, assieme a Tallinn appunto Turku sarà il punto di riferimento della cultura in tutta Europa. E credo sia una bella soddisfazione esserci comunque, no? Assolutamente. Si vive molto bene, l'estate è molto fresca. E poi Turku è piena di monumenti da vedere nel centro storico, c'è un bellissimo fiume, Aurajoki, c'è una cattedrale, c'è un mercato coperto, Kauppahalli. E tutto questo lo porti nella tua musica? Comunque tutto questo in qualche modo lo porto nella mia musica. Tra l'altro la Finlandia in qualche modo quest'anno sarà anche ospite proprio nel Salento la prossima estate. La prossima estate ci sarà la prima di un mio concerto per chitarra e orchestra dedicato proprio alla Finlandia, ma questo concerto è ispirato comunque a Turku e alla musica e alla cultura finlandese. Quindi la Finlandia sarà anche in Italia la prossima estate, con una prima a Lecce il 30 di giugno e con una replica successivamente in novembre con l'orchestra Sinfonica del Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo. Perfetto, verremo sicuramente ad ascoltare queste belle contaminazioni. Grazie Francesco per averci dato questo assaggio. Grazie di cultura finlandese e non solo. Ci ritroveremo in una delle prossime puntate, ok? Ciao, buon sabato, ciao. Lo so, è un po' rumoroso come concerto. Diciamo che è una composizione per pianoforte automobili, per pianoforte strada, per pianoforte e passeggio, questi rumori di fondo. Continuiamo a parlare, c'è anche l'applauso, in particolare un applauso fatto sulle strisce pedonali. Quello che stiamo ascoltando è quello che sta accadendo quotidianamente nelle strade di Barcellona, dove c'è un pianoforte in tournée, si muove il pianoforte e chi passa può provarlo, può suonarlo, può esibirsi. E per capire il perché e per capire anche il sapore di questa strana iniziativa abbiamo invitato nuovamente il giornalista della pagina culturale e del giornale Pubblico, Tony Polo. Ciao Tony. Buongiorno, come va? Bene, hai provato a suonare il pianoforte? No, io non sono azzardato, meglio di no. Comunque ci può provare chiunque. Allora, funziona questo, così. Questo pianoforte gira per 14 quartieri di Barcellona, perché dal giorno 18 che gira fino al 31 marzo. Sì. Infatti lo può suonare chiunque. Io ieri l'ho visto in Plaza Ibiza, che è un quartiere allontanato dal centro, però che ha molta vita sociale, così, e verso poco prima delle 8 di sera, che quando finisce c'era addirittura uno spazzino, stava lì a guardare, appoggiato la scopa e si è messo a suonare Carmen. È stato bello. Fantastico. Cioè, chiunque lo può toccare, veramente lo può suonare, veramente è una cosa interessante. Ecco, ma come mai? Nel senso che questo mese di marzo, appunto, è stato scelto il mese per mettere questo pianoforte a disposizione dei cittadini? Questo è stato scelto, è una promozione, diciamo, di un concorso di pianoforte internazionale molto importante, da 57 anni che si fa, il Maria Canals. Sì. Maria Canals era una musicista di Barcellona che è morta l'anno scorso a 96 anni, però fino all'anno scorso lei stava sempre dietro il concorso, controllava tutto, cioè una persona molto, molto interessante appunto. Già l'anno scorso si è fatta questa iniziativa, però quello che hanno fatto è stato mettere 20 pianoforti di questi a parete, fissi in 20 posti della città. Quest'anno quello che hanno fatto è un pianoforte a coda, Yongchang, di Yamaha, e gira, ha un programma di oggi, per esempio, alla Rambla dal Poplanou, ieri era nel quartiere di Orta, però è stato alla Rambla, è stato un po' in zone del centro. e finirà il 31 marzo. Il 30 e il 31 marzo sarà al Palau de la Musica, l'emblematico Palau de la Musica, certo, di Barcellona, che dove si farà la finale di questo concorso, e sarà lì proprio, che c'è uno spazio all'aperto pubblico, lo metteranno lì gli ultimi due giorni. E comunque, Tony, tu hai avuto possibilità di osservare, scatena curiosità, comunque la gente, sì, si ferma non solo per suonare ma soprattutto per ascoltare. Posso dire, sì? Quando è stato in centro, per esempio la Ramblas, nel Palau de la Virreina, lì c'erano molti turisti, lì si può dire che da praticamente dalle 10, questo sta dalle 10 alle, dalle 10 mattina alle 8 di sera, okay, c'è la fila. Ieri per esempio era in questo quartiere, io ci sono passato verso le 10, c'era poca gente, c'era uno che suonava, però pochi che guardavano, poi a ultima ora verso le 8 c'era più gente, però è però, questo che insomma una bella... nonostante... Dimmi. No, sì, è una bella cosa, insomma, è l'informalità della musica. E poi si suona un po' di tutto, perché si è suonato molto jazz. Barcellona è una città che ha molta tradizione jazzistica, diciamo, soprattutto musica classica, logicamente. Insomma, c'è libertà di spartito, anche questo è bello. Tony, grazie davvero, e lo sai, quando succede qualcosa di culturale in Spagna noi ti peschiamo, perché sappiamo che tu sei attento, soprattutto lì a Barcellona. Ciao, grazie, buon sabato. Finisce qua la puntata dell'Altro Europa di oggi. Un grazie a Claudia Carusi, che l'ha scritta con me, insieme a Margherita Ina, in assistenza oggi Giorgio De Luca, Peter Bescapè alla parte tecnica. L'Altro Europa at radio24.it se volete farvi video, oppure ci trovate su Facebook. Noi siamo qua come sempre sabato prossimo. Ciao!